140 caratteri. Una settimana di spettacoli. Di Marta Cagnola. Buongiorno da Marta Cagnola. Gli spettacoli, i protagonisti, le storie, il dietro le quinte. Abbiamo seguito tutti gli eventi questa settimana con Radio 24. Li abbiamo raccontati in tempo reale su Twitter seguendo il nostro account ufficiale @140caratteri R24, ma anche il mio account @MartaCagnola. Televisione, teatro e cinema nella nostra puntata di oggi di 140 caratteri. Pala 3, Milano. Teresa Mannino e Michele Foresta, Mago Forest, prendono da domani il testimone della conduzione di Zelig. Emozione alla vigilia del debutto? Rispondi bene, questa è una testata serissima. No, è una finta vigilia perché in realtà noi già ieri abbiamo fatto la prima registrazione delle due che si fanno solitamente, si fanno due spettacoli identici e poi quello più bello, la serata più bella va in onda. Quindi siamo già un po' più rilassati perché il luogo ci sembra adatto al cabaret e insomma questo tendone, questo Pala 3 ci piace assai. È vero. La realtà supera la fantasia e anche la comicità ultimamente, bisogna stare attenti. I record sono fatti per essere battuti e tutto è fatto per essere sorpassato, quindi non ho capito la domanda, però sì. Come entrerà questa realtà, entrerà o non entrerà questa realtà, la politica, l'attualità? La domanda è bellissima ma non so rispondere, risponde Teresa. Rispondo io che sono quella intelligente. Allora, diciamo che la politica non ci sarà della satira politica pura, no? Alla crozza, diciamo, alla grillo, no, non ci sarà. Ci sono riferimenti alla realtà perché il cabaret è mondo che ti circonda, cioè è un occhio particolare, appunto comico. Contemporaneità, posso dire questa parola, contemporaneità. Bravo. Ma vedi che non sei, però no, sei stupido ma non ignorante. Brava. Quindi è ovvio che facciamo riferimento a tutto quello che ci accade intorno e non si può non fare riferimento, però la satira politica è un'altra cosa. Zelig ha sempre fatto vanto di avere comici di tutta Italia, però quest'anno il baricentro si è spostato più verso le isole, verso l'isola. Come mai? È stato un caso, come la lotteria che i numeri escono a caso. Un caso, poi devo dire che forse io sono più identificata come la comica siciliana, quando non dicono che sono la comica col nasone, quella senza tetto, quella riccia, insomma sono la comica siciliana. Michele è un po' meno perché è un po' più international, perché ha lavorato anche all'estero. Sono emigrato molto prima, quindi sì. Io sono arrivato a Milano, avevo 20 anni. Ne ho 39, quindi sono già 19 anni che sono a Milano. Quindi... Però io faccio la comica da quando mi sono trasferita a Milano, quindi la mia formazione è proprio milanese. Quindi possiamo dire che siamo i comici di tutta Italia. Possiamo dire che siamo i comici di tutta Italia. Ma dillo, chi se ne frega tanto? Sì, chi ti controlla? Chi ti controlla? Poi noi siciliani siamo convinti che le cose buone siano solo quelle nostre, eh? È vero? Ma che ci devono fare altro? La cassola, ma vaffanculo, per cortesia. Solo noi sappiamo cucinare le cose buone, solo noi le sappiamo fare. Tanto è vero che sui voli da Palermo a Milano, ma che ci portiamo? Di tutto! Cassate, cannoli, arancine, caciocavalli, una puzza su quei voli. I voli da Palermo a Milano sono gli unici in cui sono i passeggeri a dare da mangiare alle hostess. So che è un problema che riguarda più spesso gli uomini, però ansia da prestazione? Questo silenzio è perché indicativo. Non ho capito perché la giornalista in questo momento mi sta guardando negli occhi con quegli occhietti di chissà. Da cerbiatto. Un po' di ansia di prestazione, se penso a Bisio mi viene. Un po' come quando quella volta che mi sono messo con una ragazza che si era appena lasciata con Rocco Siffredi. Ma poi, diciamo così... È andata male. No, ansia da prestazione no, lo sai perché? Perché intanto perché Claudio insomma, è stata una scelta sua e quindi... È giusto che sia così, insomma, è giusto rispettarla. E poi perché in effetti siamo cresciuti, mi sono proprio formata, dico deformata a Zelig. Io non ho ansia da prestazione non perché mi sento brava, forte, no, perché mi sento a casa mia. Siamo coccolati, quindi stiamo bene perché siamo nell'habitat naturale. Mamma mia, hai iniziato, eh? Ma sai che lavorare con te, l'INPS me l'ha riconosciuto come lavoro usurante. Andrò in pensione 2 anni prima, veramente. Marco. Bene, senti, sono ancora agitato, ragazzi. Ma per cosa? Perché venendo qua mi ha fatto un inseguimento i vigili urbani, proprio con le sirene spiegate, mi hanno fermato qua dietro. Ho rischiato di non essere qui stasera, caspita. Ah, era passato con Rosso. Ma no, che Rosso, no. Stavo col telefonino in macchina senza auricolare. Senza cintura. No, ho fatto un'infrazione che di solito faccio sempre, ma non mi hanno mai beccato. Vabbè. No, praticamente mentre guidavo... stavo contemporaneamente facendo all'amore con due ragazze. Morale della favola, mi hanno ritirato la patente e sequestrato la moto. È andata così, è andata così, è andata così. Solo un'ultima domanda, volevo sapere da Teresa qual è... We are coming, just a moment. Bravissima. Very important question. Yes. Qual è la storia della bacchetta magica di Mago Forest? Perché glielo chiedono tutti? Della bacchetta magica? Guarda, io penso che sia una velata allusione erotica. Non dirlo. E io devo, posso confermare che la bacchetta di Forest è magica. Stop. Brava. Teatro Manzoni, Milano. Mancava dalle scene da 9 anni. Ora nella locandiera di Goldoni torna Nancy Brilli. Per lei tanta nostalgia del palco in questi anni di attesa. Questa attesa è stata piena di cose da fare. Proprio piena di cose da fare. Ho avuto da tirare su un figlio, fare film, fare fiction, per cui non ho avuto tempo di star lì a pensarci troppo. Però un retropensiero che mi diceva sempre: ma quando torni, ma quando vai, ma guarda che t'aspetta, ovviamente parlando del palcoscenico, c'era sempre, c'è stato, è un mio grande amore e sono veramente felice di essere stata in grado di organizzarmi per partire di nuovo. Ripartire con un classico, peraltro un classico molto amato dalle attrici, soprattutto le giovani attrici che sognano il palcoscenico, perché la locandiera, insomma, è davvero uno dei ruoli femminili più importanti del teatro italiano. Sì, beh, poi è uno di quei, siccome è piena di monologhi, è una di quelle cose che si porta ai provini delle scuole di recitazione, no? Il monologo di Mirandolina. E, mamma mia, non hai idea la memorizzazione di tutta questa roba, lo spiccico. E, però beh, Mirandolina poi non è in realtà la giovane attrice, lei dice io non sono più una ragazza, ho qualche annetto, non sono bella, è proprio una sua dichiarazione. In realtà lei fa la vezzosa per raccogliere complimenti dal cavaliere, però io credo che sia adatta ad un'attrice della mia età. Tutti mi fanno gli ascalotti, tanti infatti vogliono addirittura sposarmi. Quel signor cavaliere, rustico come un orso, mi tratta così. Questo è il primo forestiero che arriva nella mia locanda che non ha piacere di trattare con me. Dico che tutti debbano innamorarsi, disprezzarmi così. È una cosa che mi muove la pelle terribilmente. È nemico delle donne, non lo può vedere. Povero pazzo, non avrà trovato ancora quella che sappia fare, ma la troverà, la troverà. È difficile trovare dopo i 30 anni ruoli in Italia, qualcuno lo dice? In cinema moltissimo. Ruoli da protagonista è molto difficile, interessanti. Ruoli da comprimaria se ne trovano, ma insomma... Non è così facile. Se io mi guardo intorno, cose che avrei voluto fare non ho fatto, non ne vedo. A parte il meraviglioso film di Tornatore, che era La sconosciuta, che però lei ha fatto divinamente bene. Tante riflessioni sulle donne porta questa pièce? Sì, sulle donne, su... Una cosa che non è né maschile né femminile è il parlare d'amore e non viverlo. I nostri personaggi ne parlano molto, ma in realtà sono orientati verso se stessi, guardano se stessi, guardano il proprio profitto, la propria identità, ma l'amore prevede uno scambio, prevede un dare e avere, invece qui c'è molto prendere. Mirandolina paga un prezzo per l'indipendenza, per l'affermazione, per quello che potremmo definire un successo. Si paga un prezzo per il successo? Per un certo tipo di successo sì, nel senso, per esempio, una carriera internazionale richiede uno spostamento continuo che uno che voglia avere una famiglia ha difficoltà. Io stessa molte cose non le ho accettate per non andare lontano. Questo stesso teatro che non riuscivo a fare, non riuscivo a farlo perché dovevo stare appresso a mio figlio, dovevo e volevo, ho fatto un figlio per crescermelo e godermelo, non per farlo crescere da qualche domestico. Per cui sì, un prezzo c'è. Fare teatro in tempo di crisi è importante e anche difficile. Sì, è importantissimo farlo perché si può fare bene, nonostante tutto. E perché ho visto che le persone hanno voglia di andare a vedere delle cose belle. E io sono convinta che abbiamo fatto una cosa bella. Che Italia hai visto in queste prime tappe della tournée? In difficoltà e bisognosa di essere rassicurata. Ho visto troppe persone, ho sentito troppe persone parlare di rinchiudersi in casa e di vabbè, noi ci chiudiamo nel nostro orticello e pensiamo a noi, ma non è così che si va avanti. Bisogna rassicurarli, bisogna fargli vedere che si può fare anche bene. L'Italia mi sembra che abbia molto bisogno di questo, ma reale, però non raccontandogli che gli si levano le tasse, perché non è questo. Non è questo. Come i genitori che insegnano ai bambini, il miglior modo per insegnare ai figli è dargli il buon esempio. Allora, se tu rubi e poi vuoi che tuo figlio invece paghi tutto dal primo all'ultimo, tuo figlio prima o poi si incazza. Ci ritroviamo tra poco con 140 caratteri per parlare di cinema. 140 caratteri. Una settimana di spettacoli. Ritorniamo insieme con gli incontri, gli eventi protagonisti di una settimana di spettacoli. Li abbiamo seguiti tutti in tempo reale via Twitter giorno per giorno tra conferenze e presentazioni stampa. Il cinema nella seconda parte del nostro 140 caratteri. Terrazza Martini, Milano. La storia di un papà ex calciatore che per il figlio diventa coach e fa innamorare le mamme. Quel che so dell'amore, torna Gabriele Muccino. In realtà potrei scrivere un libro su quello che ho imparato non solo da questo film, ma da questi 3 anni in America, cosa che tra l'altro mi hanno proposto di fare pochi giorni fa. E credo che sia necessaria, perché un'intervista non potrà mai raccontare fino in fondo le sfumature, i paradossi, le cose entusiasmanti e quelle deludenti che rappresenta una carriera in un sistema come quello di Hollywood, che è un sistema che ha delle regole molto rigorose, un pubblico che si aspetta un determinato prodotto e che per certi aspetti è molto diverso dal pubblico europeo. Allora ragazzi, come sapete è la mia prima partita come allenatore. Fatemi vedere che cosa sapete fare. Voglio che mostriate a quelle mezze seghe di che cosa siete capaci. Chiaro? Dovete essere dei killer. Voglio che entriate in campo decisi, che parliate tra di voi e soprattutto che vi passiate la palla. Ricordatevi, non potete segnare se non passate e tirate. Siete pronti? Sì! Tutti qui, intorno a me. Ok, quale mani? 1, 2, 3. Forza Cyclones! Ragazzi, questa cosa si fa tutto insieme, è importante, ok? Diciamo 1, 2, 3 e lo rifacciamo. 1, 2, 3. Forza Cyclones! Emotivamente come ti trovi di fronte al debutto italiano? Perché è diverso? Il debutto italiano è quello a cui io tengo di più. Quando faccio un film, comunque, in America, penso comunque all'Italia, al pubblico italiano, al cinema italiano da cui io sono cresciuto, che non è il cinema degli anni 70 e 80, ma il cinema che io non ho mai visto al cinema, ovvero il cinema che va dagli anni 50 agli anni 70. Cioè, diciamo che quando io avevo 5-6 anni il cinema italiano ha sperperato il suo tesoro immenso che aveva coltivato per decenni. Per cui in realtà l'Italia è il paese a cui tengo di più e da cui sento comunque un'attesa personale. In qualunque altro paese del mondo escono i miei film, qui esco io in qualche modo, e questo mi espone terribilmente, ma fa parte del gioco. Mi sono ritrovato come per caso a diventare a diventare mucciniano anziché Gabriele Muccino, per cui in realtà si è creato un pubblico negli anni molto solido che si aspetta sempre qualcosa di importante e che crea ovviamente una pressione, un'ambizione, una paura, come fossi ancora al primo film. Ottima giocata, vagli sotto, sotto, forza, coraggio, in difesa ragazzi, in difesa. Aaron non voleva smettere di allenarsi ieri. Lo credo, non so da quanto tempo Jason non passava 3 ore di seguito insieme a suo padre. E io ho trovato Brian che imitava le facce del mister davanti allo specchio stamattina. Dai Luis, dai! Corri, corri, corri, corri! Così! Dai, tira! Il mister sembra un tipo in gamba. Già. Ed è anche un bell'uomo, non credi? Matto di più. Che vuoi dire? Non voglio mica sposarlo, è un bell'uomo, ho detto solo questo. Ok. Ed è anche molto bravo con i ragazzi. No? È così che si fa, è così che si fa, è questo che voglio, dammi 5, dammi 5, Luis! Dice che l'Italia non perdona chi ha successo, soprattutto all'estero. Tu cosa ne pensi? Ma credo che non è un problema di perdono, è che è insomma, quando c'era il Colosseo, il pubblico, la cosa che amava di più era quello di alzare il pollice o abbassarlo, e questo rimane proprio cioè l'umanità ama vedere qualcuno salire e poi ama vederlo cadere. È proprio è una sorta di istinto primitivo che però con cui dobbiamo fare i conti. L'unico paese dove sento che questa necessità di vedere lo schianto è inferiore, è quasi invisibile, è l'America, perché l'America è forse l'unico paese che io abbia conosciuto dove il successo è visto come un traguardo quasi morale, cioè l'individuo che ce la fa è ammirato profondamente. Eppure anche questo paese, che è il paese che proprio crede nell'individuo più di ogni altro, quando si arriva a essere Tom Cruise, alla fine ti vogliono vedere cadere. Ho visto da vicino attori di quel calibro che hanno comunque una pressione addosso enorme. Se ti faccio tenere il volante, tu ce la fai a guidarla? Dici sul serio? Perché non ti sembro serio? Quanti bambini conosci che vanno tutte le settimane alla partita di calcio? Un sacco. Un sacco, giusto? Ma quanti di loro guidano una Ferrari? Pronto? Sì! Andiamo! Più veloce? Piano, che siamo quasi alla curva. Rallenta, rallenta. Bravo, così. Così. Accidenti, sei un fenomeno. Vado bene? Benissimo. Sì. Guarda la strada, guarda la strada. Sì. Andiamo più veloci? Sì. Ok. Lascio il volante ora, ok? Ci sei? In bocca alla curva. Attento. Così. Così. Ok. Bravo. Più veloce. Sì. Che figo. Che figo. Questo non lo diciamo a mamma, ok? Ti faccio fare il critico invece del regista. Per chi è adatto, per chi è perfetto, chi deve andare a vedere quel che so sull'amore? Ma chiunque voglia credere nella forza della vita, in qualche modo, anche chiunque voglia comunque sentirsi in movimento, secondo me vedendo questo film sentirà che la necessità di muoversi, di andare avanti, è necessaria. Ed è tutto per il 140 caratteri di questa settimana. Continuate a seguirci ogni giorno seguendo il nostro account ufficiale di Twitter, @140caratteriR24, ma anche il mio account, @MartaCagnola. L'appuntamento in radio è per domenica prossima.